Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore, di Alessio Maurizi e con Carlo Gabardini. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. You see the go-getter, she's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold type. I got faith in you, baby. I got faith in you now. And you've been such a good friend to me. Oh, that I love you so high. I met you, hallelujah. I got faith. See the boy with the Stevie. La rete dei complici di Igor, il killer di Budrio, uccide altre 3 persone, preso in Spagna, estradizione in forse. Il criminale aveva contatti dalla Serbia alla Francia, hanno coperto una latitanza di 8 mesi, Corriere della Sera. Accuse a Boschi, allarme nel PD, giù i sondaggi. Così apre la Repubblica, ovviamente anche con foto di Igor il russo preso. E tra l'altro devo dire che ci sono 4 foto che non è che ti viene proprio l'idea che fosse un incredibile trasformista. Abilissimo, sono no, quasi tutte uguali. Sono quasi tutte uguali, quindi veramente la vera domanda è come mai ci abbiamo messo così tanto. Comunque questa è la Repubblica. Il Giorno, assassini per soldi, Milano, fermo shock, Antonietta Biancarniello e il figlio Raffaele dovevano 38.000 euro ad Andrea La Rosa dopo averlo sgozzato, volevano scioglierlo nell'acido. L'incredibile storia di cronaca nera sulla prima pagina del Giorno. Un'altra bruttissima notizia. Buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno, buon sabato da Carlo Gabardini. Per trovare una notizia incoraggiante dobbiamo tornare a un caso, anche qua a un caso di cronaca nera, ma c'è uno spiraglio, riguarda la vicenda Regeni. Sulla prima pagina di Repubblica, Regeni, l'Egitto consegna il dossier sull'inchiesta, i genitori, è già un primo risultato. Ne approfittiamo giustamente, sì, per darla oggi come buona notizia, perché appena verrà aperto questo dossier ho la netta sensazione che ci saranno un sacco di notizie invece terribili che non daranno vere risposte. Però per oggi, finché l'hanno consegnato, come dice la famiglia, finalmente un segnale, è un segnale positivo e quindi giustamente è una buona notizia. Potrebbero esserci dire brutte cose dentro il dossier, però potrebbe anche non esserci niente, perché esatto, naturalmente è quello che mi spaventa. Che cosa mi spaventa, che non ci sia niente. La procura, insomma, perché queste sono le carte dell'inchiesta egiziana sulla morte di Giulio Regeni, che doveva essere già consegnata un anno fa, era stata promessa, leggo all'interno di Repubblica, dall'allora procuratore generale egiziano Sadek in visita a Roma il 6 dicembre dell'anno scorso. Ve lo diamo subito, questo dossier che era stato richiesto già mesi prima, ci è voluto un anno. Nel frattempo, leggo ancora da Repubblica, la procura di Roma che indaga spera di trovare sostegno in questo fascicolo alle verità incontrovertibili, scrive Repubblica, a cui già oggi la procura romana è giunta, cioè che Giulio Regeni era oggetto di un'indagine da parte dei servizi segreti egiziani, che i servizi segreti egiziani avevano dotato un ambulante, Mohamed Abdallah, di una telecamera nascosta perché lo registrasse e provasse ad incastrarlo, e poi che almeno 3 poliziotti egiziani hanno mentito ai colleghi italiani. E insomma, le premesse non sono di una grande collaborazione tra Italia e Egitto. Vediamo se questo passo aiuterà gli avvocati della famiglia di Giulio Regeni a trovare la giusta verità. Sempre su Repubblica, la questione di cui noi dopo ci occuperemo lungamente e precisamente, ovvero quella del fine vita, che ci sembra una buona notizia, possiamo dirlo, anzi è una buona notizia. Soprattutto con una grande persona, un grande uomo, un medico, un esperto di cure nel fine vita, Furio Zucco, una persona che già con la sua associazione Consapevolezza Ora ha aiutato tantissime persone in questa fase difficile della loro vita. E sarà una bella intervista dopo il GR delle 8. Esatto, e comunque giustamente gente si spaccano anche all'interno della chiesa. Si dice il no della CEI e il sì dei gesuiti. E in Repubblica c'è un'interessante intervista a Ruini, che è assolutamente contrario. Ricordiamo, fu anche colui che rifiutò a Pier Giorgio Welby il funerale in chiesa. E comunque dice si tratta di disposizioni anticipate, cioè di decisioni che una persona prende prima di trovarsi nella situazione per la quale decide. È un punto di vista in realtà interessante questo di Ruini, perché dice: spesso la prende quando è sana, quando sta bene, una situazione di grave malattia e limitazione personale le appare insopportabile. Ebbene, posso dire che anche per esperienza personale, che quando ci troviamo concretamente in quelle situazioni, la nostra percezione di solito cambia, ci abituiamo a convivere con esse e speriamo, nonostante tutto, di poter continuare a farlo. Però nella stessa pagina bisogna dire che Repubblica si incarica anche di trovare nel fronte cattolico quelli favorevoli. Sono i gesuiti di Milano in particolare. I gesuiti di Milano. Non tutti i gesuiti hanno una rivista, si chiama Aggiornamenti Sociali. Dicono che secondo loro la legge del biotestamento non presta fianco a derive nella direzione dell'eutanasia, che resta ovviamente un punto negativo per i cattolici. Medici cattolici milanesi, anche in questo caso, pure loro dicono che questa norma sul biotestamento è una norma positiva. Ma quindi ti chiedo una cosa di Milano, che ha una posizione diversa rispetto al resto, vai. Perché Ruini, sì, a te, perché a noi, perché Ruini dice che la legge non prevede l'obiezione di coscienza, invece mi sembra che la preveda. La prevede. E come? La prevede, quindi, ne parleremo appunto con Furio Zucco e cercheremo di capirne qualche cosa di più. 800 24 00 24. Come parleremo anche torniamo a parlare del filone dei sospesi. Il caffè sospeso ha avuto un seguito. Li abbiamo fatti tutti i sospesi, tutti possiamo dirlo. Fatti, ma però questo è bellissimo e lo rifacciamo. Giocattolo sospeso. Esatto. Il giocattolo sospeso a Napoli. E allora noi vi chiediamo in che modo vi state preparando a fare un gesto di bontà. Il vostro gesto di bontà di Natale sembrerà una cosa banale, scontata. A New York, per esempio, c'è un'associazione che regalerà a 3.000 senza tetto una smartphone con una app per consentirgli di ritrovare un rifugio, il posto per avere passare una notte al caldo e un pasto più vicino a dove si trovano loro. Questo è quello che sta pensando di fare l'amministrazione di New York. La vera domanda è come faranno a ricaricarli questi telefonini. Giusto. Noi vi aspettiamo. In realtà noi sai cosa dovremmo fare? Sì. Visto che si parla tanto di togliere i telefonini agli studenti quando vanno in classe, forse la mattina i telefonini degli studenti li potrebbero usare i clochard. Consegnarli senza tetto e riprenderli forse dopo all'uscita. 800 24 00 24, i vostri gesti di solidarietà che vi preparate ad affrontare in vista del Natale. Può anche essere accompagnare la suocera a trovare i parenti, perché anche questo è un gesto di bontà. Assolutamente, dire, dipende dalla suocera. Impegnativo. Ma sentiamo che cosa si aspettano i lettori dai giornali di oggi in edicola, la nostra rassegna stampa on the road, questa volta a cura di Giorgio Stamatopoulos, Roma. Ciao Alessio, ciao Carlo, eccoci di nuovo in giro per scoprire come i romani amano informarsi e su cosa in particolare. Innanzitutto è il traffico a Roma e l'immondizia. E poi il famoso albero di Natale. Spelacchio. Ti piace? No. Non forse sempre della Boschi, ma di quello che succede nel mondo. Gli attacchi terroristici che fanno, cosa ha fatto Trump. Questa sulla legge sul fine vita è interessante. Non leggo proprio. Zero. La mattina li leggo, però solamente per vedere l'oroscopo. Non li leggo perché credo che siano molto pilotati. Ogni quotidiano dà la sua visione dell'informazione. Esiste il problema fake news. Leggendo la stegna di tutte le varie testate, esiste. Quindi hai bisogno di attingere notizie da più parti per conoscere la verità. Forse in vacanza, ogni tanto compriamo il giornale. Leggo, o metro, perché prendo la metropolitana. Tante notizie, quelle più importanti, stanno là. Se c'è il giornale, butto un occhio. Li acquistava sempre mio padre quando ero piccola, quindi ho l'abitudine, ancora mi è rimasta e mi piace comprarli. Io vedo la mattina mio marito già con internet sa già tutte le notizie della giornata, che c'è bisogno che scende con questo freddo a comprare il giornale, giusto? Cioè, della serie ogni scusa è buona per non comprare i giornali. La signora che dice: con questo freddo perché devo scendere a comprare i giornali? Allora, è bella anche, forse sì. In vacanza compriamo qualche giornale, cioè neanche lo sa. cioè così vai in vacanza allora, quando tutto è concesso. Boschi, caso Boschi tra poco, ma anche sull'albero di Natale di Roma tra poco, però abbiamo sulla detto... Bosco ho aperto Repubblica, sì, apri, certo. Così scusami, sempre su Repubblica devo dirti questa che è bellissima, la vignetta di Altan, uno chiede all'altro si vota il 4 marzo e l'altro si sa anche per chi? L'incertezza nella sinistra. Allora abbiamo detto Furio Zucco, intervista sul biotestamento, poi abbiamo detto ascoltatori, controllori dei fatti, questa volta il fatto che vi vogliamo controllare se siamo davvero pronti a compiere gesti di solidarietà e di bontà in vista del Natale. La notizia è quella del regalo sospeso, il giocattolo sospeso che torna a Napoli. Ma poi giochiamo, cari ascoltatori, naturalmente, certo, come ogni sabato sotto domenica Natale. Mattina sotto Natale, poi figuriamoci. 800 24 00 24. Meteore, perché c'è stato la finale di X Factor, il contest musicale seguito dai più ma anche dai meno forse, quanti ascoltatori? Qualche milioncino. Su Sky ha vinto Lorenzo Licitra dall'impostazione classica, tenorile, classica eccetera. Bravissimo. Gli auguriamo anche di figlio d'arte. Perché il padre è un grande lo sapevo, è un cantante. Gli auguriamo di non essere una meteora, però ce ne sono state tante, da Sanremo a X Factor. Allora oggi ci vogliamo divertire così, scongiuriamo che anche questo bravo cantante non diventi una meteora. I fenomeni passati, così velocemente, shum. Allora possiamo fare una carrellata, ricordarli, può essere anche divertente, no? Possiamo già fare qualche nome, per certo. esempio, che ne tipo? So, tipo calciatori, io della mia epoca Luther Blissett, anch'io Luther Blissett, cioè, ma anche perché Luther Blissett poi è quello che divenne quello che oggi è Vuming, quindi però è fondamentale. C'è Krasic, per esempio, più recente, sembrava il nuovo Nedved, invece poi è sparito completamente, ma ce ne sono tanti. Attori, per esempio Paolo Calissano, sembrava il nuovo Paul Newman italiano, poi vabbè, ebbe anche una vicenda sua personale, è sparito. In politica è difficile trovare meteore perché di solito restano. Però io ne ho trovata una, Ingroia è stata una meteora. L'ex giudice? Sembrava che dovesse rivoluzionare la sinistra, è sparito. E adesso ci chiediamo dove sia effettivamente. Ecco, quindi volete 800 24 00 24, chiamateci, giocate con noi, le meteore, i fenomeni del passato e naturalmente le vostre risposte con le motivazioni più originali si porteranno a casa i biglietti per la mostra di Klimt allo splendido MUDEC di Milano. 800 24 00 24. Per ora c'è il traffico. Ciao, sono Gian Alesi. In Formula 1 ho affrontato tanti pericoli. Adesso però voglio una guida sicura. Per questo, per essere prudente, scelgo Coyote, il mio copilota. Coyote è il dispositivo che mi avverte in tempo reale su autovelox, incidente e traffico. Fai come Gian Alesi. Guida sicuro ed evita le multe. È legale con Coyote. E per Natale, se compri Coyote, per te un buono spesa da 100 euro da usare come vuoi. Operazione Premiati con Coyote, valida fino al 31/1/2018. Regolamento su mycoyote.net. Big Coyote, Drive Coyote. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, visto che i lettori dai giornali di oggi si aspettano che si parli, avete sentito Stamatopoulos da Roma, che si parli del caso Boschi, vi leggo questo un passaggio di questo commentino. C'è la sensazione che se ne parli tantissimo, se ne parli tanto, però. Vi leggo questo commentuccio qua di Gian Antonio Stella che dice, riportando la frase della Boschi: mi sono limitata a rappresentare le preoccupazioni mie del territorio aretino rispetto alla prospettiva di un'aggregazione con la Popolare di Vicenza per il futuro del settore Orafo, perché sapete che lei ha detto questo, no? Mi sono interessata, anche se poi Vegas della Consob ha escluso pressioni da parte della Boschi, eccetera, eccetera. Però Stella si domanda, giustamente secondo me, dice: ma come, insediandosi come ministro, non aveva giurato con la formula di rito giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione? Dice Stella e ripete: interesse esclusivo della nazione, non di Arezzo, degli orafi aretini o del pascolo elettorale aretino. E gli interessi di Vicenza e degli orafi vicentini e del territorio vicentino venivano dopo. Sembra un po' una cosa alla Benigni, gli orafi vicentini, ma Stella si domanda questo, l'interesse nazionale che cosa c'entra con gli orafi di Arezzo? Così, però va anche detto che l'interesse nazionale è fatto poi di interessi particolari, nel senso che da qualcuno devi pure iniziare, perché sennò di che cosa ti occupi? Non è che allora, ti metti lì e dici io mi occupo solo delle cose nazionali, quindi chiunque arriva dice no scusi, lei è aretino, no, lei è di Vicenza, no, lei è di Udine, no, quindi in qualche modo da qualche parte bisogna prenderla. Allora, come trasformare anche una buona notizia, amici di Libero, in una cosa che uno lì per lì si indigna, in una cosa malmostosa, che è il contrario di quello che facciamo noi, che giusto? È il contrario di quello che facciamo noi. Ma perché? Allora, il titolo di Libero in prima pagina è questo: i medici bravi sono cani. E il sottotitolo è: l'Europa vuole pastori tedeschi in corsia. Che uno dice, ma che succede? L'Europa vuole pastori tedeschi in corsia? Stiamo impazzendo. Che tanto sembra una cosa di controllo quella, il pastore forse tedesco, sì, forse no? Sì. E invece... Però poi la notizia è l'incredibile storia di Liu, addestrata a Grosseto, che solo con l'olfatto riconosce se un paziente ha un tumore. E allora questa noi l'abbiamo raccontata tante volte, è una certo, buona notizia. I cani che riescono con l'olfatto a riconoscere se il cancro alla prostata, in particolare, riescono a riconoscerlo meglio di alcuni test chimici, è una notizia utile, no? È una buona notizia. Assolutamente. Perché dovete trasformarla. Applauso. Caro Luciano, non so se a noi o al Libero o all'uso, però posso, al cane, al però cane, voglio spezzare una lancia. In realtà è un titolo ironico quello, nel senso che sì, dite no, perché anch'io mi ero spaventato quando ho letto i medici bravi sono cani, ho detto pensavo fosse un attacco, invece in realtà è un modo ironico. Poi ci fanno addirittura l'apertura: l'Europa vuole pastori tedeschi in corsia, questa sembra un po', sì, fa esatto, un po' paura. Esatto. Poi però Libero scrive: è roba sensazionalistica. Il pastore tedesco Liu è la preziosa risorsa del reparto di urologia dell'ospedale Humanitas di Castellanza, fiuta il cancro alla prostata, quindi alla fine giungono anche loro alla lieta conclusione. Vabbè, forse c'è da chiedersi come mai ci fanno l'apertura con un titolone a 9 colonne. Ecco, questo effettivamente, nel senso, in un momento in cui allora le cose sapere, ne succedono di più. Vuoi però... sapere cosa apre il giornale, certo, per esempio? Certo. Il giornale apre con Casa Savoia. Ah, anche qua perché torna la Salma, torna giusto? Torna la Salma, esatto. Il segreto, in segreto, torna in Italia la Salma della regina Elena. Infatti non lo sapeva neanche quasi nessuno. Stavi però, dicendo neanche la regina Elena, la moglie di Vittorio Emanuele III, trasferita dalla Francia al Piemonte, polemica sui metodi clandestini di rimpatrio, perché il nipote Vittorio Emanuele, come si chiama, Emanuele Filiberto, è un po' amareggiato perché questa cosa è stata fatta in sordina e non con cose di Stato, ma che non credo sia il caso, insomma, di fare per no? Certo, invece, visto che ci hanno chiesto sempre nella nostra inchiesta che cosa vorreste leggere sui giornali, l'albero di Natale, segnaliamo che su Repubblica c'è un approfondimento sull'abete di Roma. Dice: il Natale impossibile di un abete in città. Articolo di Paolo Peirone. Un anno fa, esperto, il primo Natale della Giunta Raggi, l'albero di Piazza Venezia era stato ribattezzato Povero Tristo. E la sindaca dovette adoperarsi con un addobbo più ricco. Quest'anno invece i romani hanno chiamato l'abete arrivato dalla Val di Fiemme, che è costato 48.000 euro, cioè 3 volte quello che è costato l'anno prima, Spelacchio. Per i suoi rami troppo spogli, ma è molto divertente, con aghi poco fitti. La Raggi lo difende, è semplice e raffinato. Elegante. Invece l'abete in Piazza San Pietro, come l'hanno soprannominato, Rigoglio o Rigoglio. Oh mamma, però bisogna mi sa anche che è messo dire meglio, che in questo articolo si specifica come la dura vita degli abeti in città vale un po' per tutti gli abeti, perché pensate che un abete per essere trapiantato correttamente andrebbe individuato 2 anni in anticipo. Bisogna tagliare le radici per 3/4 della zolla in modo tale che la pianta creerà un apparato di piccole radici da portare via al momento del trasbordo. E comunque sia, scrive ancora l'esperto, quell'abete rosso è già finito su un binario morto, probabilmente a Natale sarà ridotto anche peggio, magari le piogge di questi giorni possono aiutarlo a resistere un altro po', ma se arriva una giornata di tramontana che dissecca piante e aghi, persino una troppo giornata assolata, allora quello potrebbe essere il colpo di grazia. In effetti questi abeti che dal nord vengono alle città del sud fanno un po' pena, però sì, tutti sì, i sindaci devono farlo, perché devono far vedere la grandeur. Sì, non credo ma che cambiamo modo di fare la grandeur, ho capito, sindaci. Però è come si fa a cambiare modo di fare Natale? È l'albero di Natale, l'albero finto, però forse un plasticone di 20 metri in piazza non lo so, è un'annosa questione. Devo dire che forse le regole della piantumazione dell'abete mal si sposano con l'uso di questo albero per festeggiare il Natale. Allora, fra poco il comune ribelle della settimana. Una buona notizia. Anch'io ce l'ho una buona notizia. Vai, comincia tu. Una bella storia. Un avvocato che decide di smettere di fare l'avvocato e di fuggire con il circo. L'addio all'ufficio, gli studi da giocoliere, ora con la sua compagnia è tornato in città, ovvero a Milano. Questa è la cronaca di Milano del Corriere della Sera. Ma io vado rapido sul Messaggero, due buone notizie. Ryanair volta pagina e apre ai sindacati. Sapete che dopo la lettera minacciosa nei confronti dei dipendenti che volevano scioperare, Ryanair ha in parte adottato una politica più come dire, più giusta e più ha detto che perlomeno li sta a sentire, ma solo i piloti. E poi da Parigi, stop alla grassofobia, Parigi si è mobilitata in difesa degli oversize, con Aldo Grasso, con campagne di informazione, di comunicazione a favore, insomma, delle taglie un po' più larghe, senza far vedere soltanto delle modelle taglia come 42, quelle magrissime, che poi insomma, vabbè, lasciamo stare. 800 24 00 24, dopo il GR torniamo, parleremo con Furio Zucco, vi vogliamo controllore dei fatti, i vostri gesti di bontà in vista del Natale, e poi le meteore del passato, fenomeni transitati dal passato e mal arrivati al presente. Non vogliamo augurarlo a Lorenzo Licitra, vincitore di X Factor, però quello dell'anno scorso non se ne ricordava nessuno. Non sono un grande fan della caccia delle meteore, perché mi spaventa sempre come questione, diciamo. Ci sono invece magari delle persone che vorrei che fossero delle meteore, ecco, appunto. Ma noi adesso ascoltiamo Marco Boschini, Comuni Virtuosi, il comune ribelle della settimana è... Ciao Carlo, il comune ribelle di questa settimana è Berlingo, provincia di Brescia. Berlingo è un po' il nostro libretto di istruzioni quando ci chiedono se è possibile riconvertire un territorio colpito da un disastro ambientale trasformando tutto in un progetto sostenibile. Non molti anni fa nel centro del paese insisteva una cava esaurita, divenuta nel tempo una discarica abusiva di rifiuti tossici. L'amministrazione, guidata dall'allora sindaco Dario Ciappetti, non si scoraggiò, iniziando una battaglia per ottenere la bonifica del terreno e progettando la successiva riconversione ambientale, che l'ha trasformata nel gioiello che è oggi: una scuola materna, il palazzetto dello sport, la bocciofila, il circolo degli anziani, le scuole elementari e infine le medie, intitolate alla memoria del sindaco Ciappetti, nel frattempo prematuramente scomparso 5 anni fa. Alla sua memoria abbiamo attivato una borsa di studio per neolaureati. Proprio oggi si terrà la cerimonia di premiazione a Bergamo dalle 2:30. Dario era un ribelle gentile, un rivoluzionario lento e paziente, pacifico nei modi, era risoluto e visionario nell'azione. Si occupava dell'oggi ma aveva a cuore la cura del futuro. L'informatico Alan Kay scrive: il miglior modo per predire il futuro è inventarlo. Dario nel suo presente progettava un mondo migliore. A noi il compito quotidiano di non deluderlo. Iberdrola è arrivata in Italia. È leader mondiale nella produzione di energia rinnovabile ed è qui per te e per la tua voglia di verde, perché porterà a casa tua risparmio ed energia verde garantita al 100%. Vieni a conoscere tutte le offerte e i servizi su iberdrola.it oppure chiama all'800 690 908. Scoprirai che l'energia verde fa bene anche alla bolletta. Risparmia ora con Iberdrola. Iberdrola, tutta l'energia verde che vuoi. A Natale siamo tutti più buoni. Monge però è buono tutto l'anno. E voi lo sapete. Monge, le chatte e Special Dog sono alimenti sani e genuini, senza coloranti, conservanti e senza zuccheri. Bocconi cotti al forno, patè cremosi cotti a vapore e crocchette con tanta carne fresca. Insomma, una vera prelibatezza. Il regalo ideale per il vostro cane e il vostro gatto. Buon Natale dalla famiglia Monge a tutti gli ascoltatori e ai loro amici a quattro zampe. Monge, il menù di Natale per cani e gatti. Ma ho solo aperto una mail. Un gesto abituale può mettere in ginocchio la tua azienda. Gli attacchi informatici aumentano di ora in ora per numero ed efficacia, minacciando business e continuità operativa. Proteggi il tuo lavoro con Kaspersky Lab, l'azienda di cyber security più premiata al mondo. 400 milioni di utenti hanno già scelto l'affidabilità di Kaspersky. Vai su kaspersky.it o contatta un nostro partner. Edo, cosa regaliamo a papà per Natale? Una sciarpa. Gliel'abbiamo presa per il compleanno. Un dopo barba. Già fatto per la festa del papà. Delle pantofole? Natale 2015. Ce l'ho. La carta regalo Trenitalia, così parte per Capodanno con mamma e ci lascia casa libera. Questo Natale regala carta regalo Trenitalia per far viaggiare chi ami in tutta Italia. E fino al 6 gennaio, acquistando una carta da più di 100 euro, hai un buono sconto per te da 20 euro. Acquistala in agenzia, in biglietteria, nei principali supermercati e media store. Info e condizioni su trenitalia.com. La giusta energia. Sono Giovanni, ho 55 anni, questa è la mia tana, la mia sartoria. Questo lavoro lo faccio da sempre, l'ho ereditato dal mio papà. Io ricordo già quando ero piccolissimo che vivevo in mezzo ai tessuti. Il metodo artigianale ha in sé il concetto di qualità, la qualità che metto nel dettaglio. Naturalmente per me la scelta dei fornitori non si limita semplicemente al buon tessuto o al buon filo. Ci sono ben altre cose, non ultimo i costi dell'energia. E scegliere un fornitore che mi consenta di avere una bolletta trasparente per essere consapevole dei consumi e dei costi per me è molto importante. Sono tutte caratteristiche che ho trovato in Enel Energia. Scopri tutte le altre storie di Giusta Energia in collaborazione con Enel Energia su ilsole24ore.com. Enel Energia per il mercato libero. Guida assistita, connettività senza barriere, lusso svedese. Finalmente puoi lasciarti guidare. Volvo XC90 con Pilot Assisti Serie. Oggi tua a 535 euro al mese con leasing anche ai privati. Tasso leasing 1,90, TAEG 4,63, durata 36 mesi, 35 canoni da 535 euro. Info presso punto vendita, salva approvazione Findomestic Banca, scade il 31 dicembre. Volvo XC90, made by Sweden. Se sei in difficoltà con il gestionale, chiama, verrai richiamato, forse, spera, prega. Con Sistemi non siete mai soli, abbandonati a chat, call center o chatbot. Certo, noi usiamo la tecnologia, ma crediamo che la relazione tra le persone valga più di tutto. Ecco perché in ogni momento importante i nostri partner sono al vostro fianco con tutta la loro professionalità. Metteteci alla prova, chiamate noi o il più vicino dei nostri partner. Sistemi, insieme a voi per lavorare, produrre, creare e innovare. Perché solo insieme sistemiamo l'Italia. www.sistemi.com. Laura, ma chi ascolta i tuoi dischi di Mozart? Il mio mutuo! Il mio ascolta certa robaccia! Scegli un mutuo con i tuoi stessi gusti. Scegli il tuo mutuo. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Informazioni credito immobiliare offerto ai consumatori in filiale e su mutuo.bancobpm.it. Banco BPM. La banca di Laura. Vai su mutuo.bancobpm.it. Tutto buonissimo. Sì. Che c'è? No, tutto perfetto. È che... È che? Magari ci hai pensato anche tu. Cosa? Sai, quando due sanno quello che vogliono... Sì? Perché aspettare? Ma... Silvia, vuoi... Sì? Cameriere? Desidera. Può portarci in altri due assaggi. Quando si parla di parmigiano reggiano, si parla d'amore. Per gli stessi ingredienti da mille anni. Per un formaggio senza lattosio e senza conservanti. Da sempre. Parmigiano reggiano, quello vero, è uno solo. Ok, il tuo mutuo ascolta Mozart. Ma che spread ti fa? Bassissimo! Scoprilo subito su mutuo.bancobpm.it. Scegli un mutuo con i tuoi stessi gusti. Scegli il tuo mutuo fra le tante soluzioni personalizzate di Banco BPM. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Informazioni credito immobiliare offerto ai consumatori in filiale e su mutuo.bancobpm.it. Banco BPM. La banca di Laura. Vai su mutuo.bancobpm.it. Oggi, se hai un'impresa o sei un libero professionista, proteggere i dati della tua azienda e dei tuoi clienti è una priorità. Su Team Digital Store, il marketplace di Team, con Kaspersky Lab, hai a disposizione le più avanzate soluzioni di protezione da virus e malware per la sicurezza dei tuoi PC, tablet e smartphone. Team Digital Store, le soluzioni a portata di business. Vai su digitalstore.team.it. Stressato dalla vita quotidiana? Concediti un momento di benessere. Gli estrattori di succo Urom sono adatti a tutta la famiglia. Facili da usare, dal design elegante e con la speciale Slow Squeezy Technology. Il sistema di spremitura lenta brevettato da Urom, pensato per preservare tutte le caratteristiche nutrizionali di frutta e verdura. Urom, il succo fatto in casa, di alta qualità. Vieni a provare le nuove generazioni di estrattori Urom presso i rivenditori ufficiali che trovi sul sito uromitalia.it. Con Chuck Norris non conviene lo scontro, ma lo sconto sì. Con la fine dell'anno arriva lo sconto finale di Fiat Professional. Fino a 13.000 euro di vantaggi su Ducato, Talento, Doblò, Fiorino e Fullback in pronta consegna. E con il leasing FCA Bank, pianale sagomato e antifurto meccanico del vano di carico by Mopar inclusi nel prezzo. Tantra 95, tasso leasing 403, info su fiatprofessional.it. Affrettati, lo sconto finale scade il 31 dicembre, scoprilo anche sabato 16. Per una volta Chuck concede un lieto fine. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, si può fare, ecco che cosa si è potuto fare questa settimana a proposito di letterine di Natale. C'è stata una ragazzina di 12 anni che ha fatto in qualche modo discutere, perché la sua letterina l'ha scritta al presidente della provincia, Vittorio Poma, della provincia... Più applaudire che discutere. Più applaudire che discutere, sì, assolutamente. E ha scritto: io sono felice di andare a scuola, ma ogni mattina quando percorro la strada provinciale mi viene tanta tristezza nel vedere tutta quella immondizia abbandonata ai margini delle aree di sosta e delle rotonde. Allora il presidente della provincia gli ha risposto, di Pavia, gli ha risposto e gli ha detto: hai ragione, dobbiamo intervenire. Adesso poi se sono stati tolti questi cumuli di immondizia non lo so. Sì, se, sì, sì. Sono sì. Già stati tolti. Sì, già stati perché, tolti. Perché il presidente ha risposto... impegnandosi a toglierli e poi li hanno tolti. Esatto, cioè ha fatto valere una convenzione con A2A che aveva stanziato dei soldi e hanno tolto, da quello che ho capito, hanno tolto proprio quelli su quella provinciale. Solo quelli lì. Non so se dobbiamo aspettarci che tutti per Natale scrivano della le via e per questo però, ci sono le social street. Per esempio, questo è un bel gesto, un bel gesto in vista del Natale. Allora noi vi chiediamo 800 24 00 24 oggi i vostri gesti di bontà, di solidarietà veri che pensate di fare in vista del Natale. Così. Io invece ti rispondo con un'altra buona notizia che viene dall'estero, dall'Australia, che però interessa a tutti noi, si è anche letta abbastanza in giro. Gli scienziati sono riusciti a trapiantare milioni di larve in aree danneggiate. Di che cosa stiamo parlando? Della Grande Barriera Corallina, un progetto che permetterà di modificare la gestione dei sistemi a rischio in tutto il mondo. Sono riusciti appunto a trapiantare queste larve e quindi si spera che la barriera corallina si rimetterà in sesto. È una buona notizia, è l'inizio di una straordinaria notizia. Allora abbiamo Elia che ci chiama dalla provincia di Ferrara, un'ascoltatrice, la prima del giorno, per chiacchierare con noi. Oggi vi chiediamo anche di raccontarci le vostre meteore, i fenomeni passati e transitati. Così questa settimana ha vinto Lorenzo Licitra X Factor, gli auguriamo di non essere una meteora, ma ce ne sono state tantissime. Per esempio quelli che hanno vinto X Factor l'anno prima non se li ricordava nessuno, sono apparsi sul palco e ho detto: c'erano anche questi qua l'anno scorso. Elia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Avendo 85 sì. anni di meteore ne ho viste tante. Certo. Qual è la purtroppo tua? La tua preferita? Eh? La tua preferita qual è? La mia meteora preferita purtroppo non c'è stata. Avrei voluto vedere sparire diverse persone. Comunque quello che ho visto sì. Questa non è male. Questa per non esempio, è male. Per esempio, io non ascolto più la Ida di Verdi. Ah, e come mai? Perché? Ma no. Si rende conto quel che dice Radames? Se quel guerriero fossi un esercito di prodi a me fedele, da me guidato, ma se l'immagina lei un esercito di prodi? Ah vabbè, ma questa era su Prodi, però scusi, Elia, la meteora ce l'ha una, perché noi abbiamo un notaio, deve prendere nota. Sì, del... Gialis che vinsero Sanremo, giusto, sì. Giustissimo. Beh, va bene. È un caso di scuola questo qua, Elia. È un caso di scuola. Grazie per averci chiamato. Noi aspettiamo altre vostre chiamate all'800 24 00 24. Vinsero Sanremo, sparirono completissimamente, sì, credo. Sì, sì. Adesso un ritorno. 1, 2, 3, 4. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up like a sex machine. machine. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Allora, è stata approvata la legge sul biotestamento, lo sappiamo tutti, se ne è parlato moltissimo, era una legge che aspettavano tante persone, persone ammalate, familiari di persone ammalate, nessun trattamento sanitario può più essere imposto, ogni persona può e deve manifestare la propria volontà di farsi curare. Se e come, ne parliamo con una persona che è una grande persona, un medico esperto di cure di fine vita e che con la sua associazione Presenza Amica ha aiutato tantissime persone in questa fase della loro vita. Furio Zucco, bentornato. Grazie, salve a tutti, salve a chi sta ascoltando. A chi ci sta ascoltando. Buongiorno, buongiorno. Furio, allora, buongiorno. Noi speriamo che siano in tanti ad ascoltarti, perché su questo tema molto delicato, anche un po' divisivo dal punto di vista politico, ma io credo che se poi parliamo, diciamo, così col cuore in mano, l'atteggiamento può anche essere diverso. Tu, per esempio, certo, cosa hai pensato quando è stata approvata finalmente questa legge? Che immagini ti sono passate davanti agli occhi? Che emozione hai provato? L'emozione di una continua crescita civile, cioè un grande passo verso una società più matura, ecco, e più consapevole. Questo termine ritorna spesso perché, insomma, per poter scegliere bisogna conoscere. Ti è venuto quindi in mente qualcuno, ecco, una persona, qualcosa di particolare, un'esperienza che hai vissuto in questi anni? Da quanti anni con Presenza Amica state vicini? Questi sono 25 anni, 25 anni, e insomma le persone sono assistite, o meglio accompagnate dai volontari di Presenza Amica, perché l'associazione è un'associazione di volontariato, ha come base la relazione d'aiuto, quindi stare vicino alle persone. Diciamo, la problematica è che spesso in Italia ognuno di noi, ma molte persone, non conoscono la situazione nella quale si trovano. Ecco, e quindi tante situazioni di ma che ci faccio qui, praticamente, no? Ricordando Bruce Chatty, che detto così sembra una cosa diciamo semplice, ma poi da vivere tutti i giorni anche per il volontario di fianco alla famiglia e alla persona, non è molto semplice. Quindi questa legge potrà sicuramente facilitare un percorso verso la consapevolezza, perché il concetto che voi esprimete, utilizzate con la vostra associazione, appunto, che in questi anni ha aiutato tantissime persone, è quello di vivere pienamente ogni fase della vita, anche quella fase che può essere la fase finale, una fase comunque di sofferenza, di difficoltà, una fase caratterizzata da malattie, eccetera. Viverla pienamente, questa legge che dà un diritto in più, nessun obbligo ma libertà, ecco. Esatto, dà una possibilità in più questa legge di avere questi strumenti, certo, per vivere, certo, pienamente questa fase della vita. Il cuore di questo provvedimento sono le cosiddette DAT, le disposizioni anticipate di trattamento. Che cosa vuol dire questa cosa? Innanzitutto il termine è importante, perché disposizioni non è né direttive ma neanche dichiarazioni, cioè voglio dire la parola ha un profondo significato, su questo si è dibattuto. Per inciso, la normativa parla anche di consenso informato, che è una premessa fondamentale. In pratica dice: se ognuno di noi pensa di poter esprimere o vuole poter esprimere la propria opinione, anche qualora pensa di non esserne capace per vari motivi, può lasciare scritto o lasciare testimonianza di questa sua volontà. Queste sono in termini semplici le dichiarazioni anticipate. Tutto questo in Italia non era normato, quindi praticamente era fonte di contenzioso o di rimozione, cioè questa parte qua, questo parere espresso preventivamente, che è caratteristico anche di alcune indicazioni europee, non veniva tenuto in conto. Però, ed è un cambio totale in realtà. Secondo me la notizia è straordinaria del passaggio di questa legge, ma soprattutto perché con il vostro lavoro che svolgete da 25 anni, io penso che praticamente tutti gli italiani si siano fatti quella domanda e si siano dati delle risposte su come vorrebbero loro essere trattati. Ricordiamo che, come giustamente diceva lei, questo sancisce nessun obbligo ma molta più libertà, quindi nessuno è obbligato, non è che adesso improvvisamente non si verrà più assistiti. Nessuno è neanche obbligato a dover sapere, esatto, perché la prima parte della legge dice io scelgo di non voler sapere, però dichiaro che il medico, il team medico ha comunque l'obbligo di informare la persona che io alla quale demando questa informazione, ecco, questo è importante. Il cosiddetto fiduciario. E, però queste disposizioni anticipate di trattamento che tu dicevi, prima dell'intervista ci hai un po' spiegato anche i termini di questa questione, che deve ancora essere messa, diciamo, resa pratica. Ci saranno dei moduli, ci saranno degli ospedali, ci saranno le associazioni che si attiveranno. È ancora un po' da scrivere il contenuto di questa legge, perché i trattamenti possibili di cui stiamo parlando possono essere tanti. Io cito solo alcune cose: la rianimazione, intubazione, antidolorifici, cure palliative, oppiacei, idratazione, nutrizione. È un insieme di cose che anche spaventa, no? Ma uno deve prendere le decisioni su ognuno di questi punti, o deve semplicemente dire io non voglio essere troppo curato? Mi scusi, la domanda stupida. Questo riguarderà, adesso dico un bruttissimo termine, la burocrazia. Noi viviamo la burocrazia nel nostro paese come qualche cosa di contrario al bene comune. In realtà una serie di procedure burocratiche saranno fondamentali per l'applicazione di questa legge, e tutti dovranno essere coinvolti, lo dice la legge, cioè praticamente dai comuni, dagli enti locali, dalle regioni, dalle aziende ospedaliere, dalle associazioni. Alcune di queste, non dimentichiamo Umberto Veronesi, la battaglia che ha fatto, praticamente hanno già elaborato dei moduli. La mia idea è che questi moduli debbano essere più aperti possibile, non è solo una mia idea, cioè prevedere delle informazioni precise, ma anche lasciare spazio all'individualità. Quindi ci sarà molto da lavorare adesso per quanto riguarda l'organizzazione e l'applicazione della legge, ma secondo me questo non deve spaventare. Cito una legge importante, che è la legge 38, che tra l'altro è la legge sul diritto alle cure palliative, che viene ricitata in questa legge. Siamo a 7 anni dalla sua emanazione, dalla sua approvazione. Stiamo lentamente ma progressivamente applicandola, quindi ci vorranno anni, e soprattutto uno sviluppo della consapevolezza di ognuno di noi. Questo è un altro stimolo importante della legge. E consapevolezza cui fa da contraltare l'altra cosa che dicevamo prima, che uno ha anche il diritto di non, di non essere coinvolto, di non essere informato se una persona ritiene di non avere gli strumenti conoscitivi. Esatto. Ce n'è per tutti, diciamo, chi vuole e chi non vuole. E chi non vuole, dipende anche dalla della libertà. Dipende anche dalla sensibilità di ognuno di noi, e appunto la tua esperienza di questi 20 anni dimostra che c'è chi chiede e chi non chiede. Ecco, non bisogna forzare chi non chiede a dover chiedere, se non è una sua scelta. Come diceva Carlo prima, non c'è nessun obbligo, come accade quasi sempre nei diritti. C'è il tema dell'obiezione, poi leggevamo oggi sui giornali Ruini che diceva l'obiezione, diciamo, bisogna tutelare la possibilità dei medici di obiettare. Lui diceva che in questa legge l'obiezione fosse assente, invece mi sembra per niente che sia assente. C'è un passaggio molto importante, ossia che praticamente il medico comunque anche nella fase di applicazione di direttive anticipate può, se in scienza e coscienza ritiene che il trattamento debba essere fatto, addirittura esprimere un parere contrario a quello della persona che dovrebbe tutelare il diritto, cioè il cosiddetto fiduciario. Lì è chiaro che si complicano le cose, perché viene poi dato al giudice tutelare l'importanza di un suo parere, un ruolo fondamentale. Quindi secondo me il medico ha comunque delle armi per poter in scienza e coscienza decidere. Quindi in realtà il medico potrebbe dare un parere negativo, e in realtà c'è ancora un giudice che decide se è lecito o non lecito? Perché a un certo momento c'è un passaggio che è abbastanza delicato, che dice che nel caso in cui il medico assuma delle decisioni contrarie a quelle del fiduciario, che è la persona alla quale ognuno di noi lasciamo detto, a questo punto, se i pareri sono opposti, si deve salire, no? Di potere di nuovo, decisionale, sì, di fronte a un giudice. Quindi questo, ah, no, questo non l'avevo capito. Però questo diciamo che dovrebbe essere un caso estremo, visto che proprio questa possibilità di esprimere attraverso un fiduciario direttamente le proprie disposizioni, certo, dovrebbe chiudere, certo, il campo, certo, alle equivoci. Ma, certo, ma questo però, per dire il livello, sì, di tutela che la legge dà, perché alcuni, certo, dicono una legge superficiale oppure che lascia aperti mille contenziosi. Questo non è un contenzioso, è praticamente in alcuni casi specifici il fatto di dire attenzione, anche in questi casi difficili, sì, c'è una via d'uscita. Ti, ecco, ho chiesto all'inizio che immagini sono scorse davanti agli occhi in questi 20 anni di lavoro con la vostra associazione di volontari che avete accompagnato persone, sì, in questa fase difficile e delicata della propria esistenza. C'è un caso, una storia che ti viene in mente, che avresti, in cui ti saresti comportato magari diversamente se questa legge fosse già stata in vigore, che avresti affrontato diversamente, che avresti avuto gli strumenti per affrontare diversamente? Ma sai, questo non riguarda il settore di applicazione delle cure palliative, cioè praticamente l'assistenza che gli fanno gli ospiti al domicilio, perché in questi settori che sono nati, diciamo, 15-20 anni fa e si sono sviluppati dopo la legge, noi abbiamo la fortuna di vedere applicata proprio quella che è una disposizione rivendicata adesso dalla nuova legge, sì, che è quella delle della cure diffusione delle cure palliative. Questo riguarda più che altro la terapia intensiva, cioè la mia anima intensivista. Io ho fatto per tanti anni il primario di anestesia e rianimazione, e in queste situazioni certamente non c'è una situazione, ce ne sono tante in cui praticamente il nucleo familiare era disperato, a volte e magari anche diviso al suo interno, immaginiamo. Assolutamente diviso al suo interno, perché scattano poi dei vissuti notevoli, e in questo caso. Però anche in questa legge, lo dico, c'è un passaggio importante: il tempo di comunicazione viene considerato tempo di cura. Questa è un'affermazione fortissima, cioè di fronte ad una una continua pressione sui medici e sul team sanitario, devi fare, attenzione, devi anche comunicare, devi anche, quindi, parlare, quello diventa un tempo previsto, quindi diciamo che il tempo di comunicazione è quello che in passato in alcune situazioni sembra esserci mancati. Non c'è un caso specifico per rispondere, ce ne sono tanti di persone che arrivavano ad una situazione avanzata e di fine vita in terapia intensiva nella quale c'era difficoltà di comunicazione, oppure il medico allora si trovava solo perché non c'era una disposizione di legge che rivendicava il diritto alla comunicazione, all'alleanza terapeutica, alla comunicazione, certo, e anche alla formazione del personale, perché anche questo è richiamato nella legge. Grazie, grazie mille Fulvio Zucco, presenza amica, grazie voi, per essere stato voi con noi anche questa volta e per commentare, per aiutarci a capire un po' meglio la legge sul biotestamento. E capite, i temi sono molto delicati. Questa è un'occasione nella quale vale la pena andare a comprarsi un giornale in edicola, perché i giornali in questi giorni sono pieni di contenuti, aiutano a capire, a spiegare questa faccenda che è molto complessa. 800 o a leggere un giornale 24, online, sì. Vi aspettiamo tra poco, cari ascoltatori, dopo la pausa. Grazie a RFID, Barcode, Beacon e Voice, le aziende migliorano la visibilità nella supply chain. Multimac è partner per l'identificazione e l'acquisizione automatica dei dati. Consulta multimac.it o chiama l'800-593-293. C'è un piccolo territorio nel cuore della Lombardia, ricco di storia, arte e natura, patria di un vino di altissima qualità. È la Franciacorta, viti dalla storia antica e metodi moderni. Franciacorta, una storia di passione. Fra 100 metri, svoltare a sinistra. Mi correggo, svoltare a forse a destra. Fra 50 metri, proseguire dritto. Forse. Invertire il senso di marcia quando possibile. Ma di destinazioni piccola impresa, quante ce ne sono? La piccola impresa è ovunque sia un artigiano. Da sempre fa parte del panorama italiano. Da sempre Confartigianato la rappresenta. Confartigianato, ritratto d'impresa. Ci hanno chiamato pazzi, noi di Costantin. Aprire nuove stazioni di servizio mentre gli altri le chiudono. Una pazzia. Sviluppare la Costantin Card dedicata alle aziende. Una pazzia. Puntare sempre su nuovi servizi offrendoti la qualità al miglior prezzo. Una pazzia. E ora che ogni settimana mettiamo in palio un anno di rifornimento gratis, beh, forse hanno ragione.

degli anni, diciamo, di gioventù di queste persone, quindi si parla di anni 50, 60. Ah, cioè andate proprio a ricantare, a ripescare quella, sì, quell'epoca lì. Sì, praticamente la musica ha un effetto, tra virgolette, curativo, perché va a stimolare quella parte del cervello di memoria, diciamo, i che non è ancora stata lavorata dalla malattia. E si vede addirittura che questi pazienti hanno come un beneficio, perché hanno come dei momenti di rinsavimento, ritornano. Ma e per Natale farete qualcosa di particolare, Alberto? Per Natale no, perché praticamente saremo in visita un po' in questi centri, no? Si parla di circa 7 case di riposo in una settimana e mezza. Ecco, vabbè, Alberto, voi siete bravi tutto l'anno, quindi non c'è bisogno di essere buoni a Natale, perché questa è una bellissima iniziativa, questa qua del utilizzare la musica. Pensa, chissà che canzoni vanno a ripescare gli anni 50 e 60, l'epoca dei nostri nonni e in parte forse anche dei nostri genitori, quando erano proprio piccoli. Anna Maria dalla provincia di Piacenza, vai. Buongiorno a tutti, velocissima. Vai. Premetto che la bontà è uno stato naturale dell'essere. Io ho fatto un super pacco alimentare per dei ragazzi di una comunità dell'Odigiano, sì, che purtroppo ricevono solo 3 euro al giorno a testa, sì, per come quello che sostegno riguarda la loro nutrizione. Cosa ci hai messo dentro in questo pacco? Guarda, di tutto, tutto quello che potevo, di tutto e di tutto più, di più. Sì, anche degli ortaggi freschi dell'orto di mio fratello, e insomma, bello questo, bello. E quindi, diciamo, siamo andati molto sul pratico. Un pacco alimentare, vabbè, insomma, sì, andare sul pratico va bene, esatto. Un gesto di solidarietà, e quindi grazie Anna Maria. Andiamo un po' di cose, grazie, perché c'è il traffico, tra poco parleremo di quello che fanno a Napoli. Sì, del regalo sospeso. È tornato il regalo sospeso, e quindi 800 24 00 24, se volete ancora siamo qua per un po'. Ti potrei parlare di spazio, raccontarti di uno stile unico al mondo e solleticare il tuo ego con parole che spiegano come la potenza non tema alcun terreno, alcuna condizione. Potrei, ma a volte basta così poco per dire tutto. Maserati Levante, The Maserati of SUVs, da 74.135 euro. Scoprila su maserati.it. Promo 24. Ogni giorno il futuro dell'auto compie passi sempre più importanti. Una nuova visione della mobilità che vede protagonista Volvo XC90. Il SUV svedese che esprime al meglio tutto il lusso scandinavo è infatti dotato di Pilot Assist di serie, il sistema di ultimissima generazione che assiste il conducente fino a 130 km orari. Il Pilot Assist consente di mantenere la velocità impostata adattandola ai veicoli antistanti, aiuta il guidatore a mantenere la corsia e a direzionare lo sterzo. Una nuova forma di libertà che a bordo di Volvo XC90 è unita a sistemi di connettività senza barriere per inaugurare una nuova dimensione di guida. Per saperne di più, www.volvocars.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. I'm a rebel just for kicks. Allora, Carlo, tu hai iniziato a fare i regali? Certo che ho iniziato. C'ho 10 nipoti, se non inizio, ma per fortuna c'ho fratelli e sorelle che mi aiutano. Però sì, ho iniziato. Ci sono come? Già tutti WhatsApp in cui ci dico questo nipote e quell'altro. Poi, anch'io con i miei nipoti. Poi qualcuno aumenta di quota, quindi bisogna aumentare le quote a tutti gli altri. Dice, ma no, se gli facciamo un regalo da 72 euro, allora anche agli altri. Quindi bisogna aggiungere due, è molto difficile. Però, entri in un negozio e non sai se puoi fare questa cosa bellissima che fanno a Napoli. Non lo sai, perché il giocattolo sospeso è una cosa che non tutti fanno, anzi, forse ancora in troppo pochi. L'assessore Alessandra Clementa, alle politiche giovanili di Napoli, è con noi. Buongiorno, ben ritrovata. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Allora, bisognerebbe fare tipo un bollino da attaccare fuori dalle vetrine, sulle vetrofanie, no? Dei negozi. Perché uno entra e sa che in quel negozio lo fanno, e quindi è incentivato magari a fare un piccolo gesto. Come funziona? Abbiamo lanciato un appello e hanno risposto più di 20 giocattolerie della città di Napoli, le giocattolerie storiche. Benissimo, 20. Espongono una vetrofania che è quella del giocattolo sospeso con il logo istituzionale della città di Napoli, c'è una filiera quindi anche pubblica che va a garantire le persone che vogliono fare un gesto per gli altri. Ci inviate un po' a Milano una cassa di questi adesivi che magari ci togliamo l'affare di Napoli e ci mettiamo Milano, così lo usiamo anche noi se qualcuno avesse voglia di farlo. Il comune di Lecce che hanno tramite media, attraverso anche voi le radio, ascoltato la notizia e ora partono anche loro, perché questa è una buona notizia al quadrato, il contagio. Mi scusi, ma solo le giocattolerie, però, perché uno sa, i regali spesso non è che uno regala per forza un giocattolo, invece è puntato solo alle giocattolerie? Sì, abbiamo voluto, perché il gioco è un diritto fondamentale dell'infanzia e dell'adolescenza, ed il gioco è un momento fondamentale per la formazione dell'io di una bambina o di un bambino, e le giocattolerie storiche della città di Napoli, in modo particolare con la figura professionale dei giocattolai, hanno aderito a questo progetto perché loro possono, nel dialogo con una mamma, con un papà, con uno zio, con un nonno, anche indicare il giocattolo più adeguato per la propria bimba o per il proprio bimbo, e soprattutto c'è una sezione dedicata per i bambini con delle specialità, per i bambini disabili. Infatti l'idea nasce proprio da in una giocattoleria che ha 125 anni di storia, la più antica di Napoli, che dedica un intero piano per i giochi per bambini autistici con delle disabilità. Io però mi sono forse perso un passaggio, ma come funziona? Si fa una donazione e poi chi arriva può scegliere, oppure si compra proprio quel giocattolo lì? In negozio devi proprio scegliere il tipo il giocattolo. Esatto, e viene messo uno scontrino di cortesia che viene apposto sulla scatola, che viene anche impacchettata e chiusa, viene dato al cliente che ha acquistato un giocattolo il proprio scontrino, e il proprio nome viene poi scritto su un albo dei donatori, che diventa l'albo dei donatori della città di Napoli. Ma chi riceve il giocattolo sospeso può sapere il nome, non dico il cognome ma solo il nome, che ne so, me lo ha fatto Carlo. Se lo richiede e lo può sapere. Così, per associare un nome, che ha no? Anche il proprio nome, ci ha rilasciato il consenso, perché sai, tante persone che non fanno parte di associazioni, di apparati istituzionali, non vogliono che apparire, non vogliono una certa riservatezza. Certo. In questo modo si mobilitano attraverso quella che è stata sempre la forza storica della il caffè sospeso, che è la fiducia quale bene comune, e anche il fatto che nessuno ha mai abusato. Cosa accade? La mano che prende invece come funziona? Ci si reca presso il negozio e si chiede alla cassa se c'è un giocattolo sospeso da poter ritirare o da poter scegliere. Si dice il tipo di bambino o di bambina, se è una maschietta, una femminuccia e l'età. L'unica cosa che chiediamo è di lasciare una copia del documento della carta d'identità, perché contemporaneamente la rete delle giocattolerie sono in contatto con l'unità tutela minori di emergenza sociale dei vigili urbani della città di Napoli. Dobbiamo però chiudere, assessore, polizia locale, che possono controllare se ci sono dei furbetti, se ci cosa sono che dei non furbetti, è ancora che non è ancora accaduta né l'anno scorso né quest'anno. Bene, questa è già una buona notizia. Quanti regali l'anno scorso? Solo la cifra? Mille. Speriamo di superare quota 1000 quest'anno. Grazie. Grazie mille. Grazie a voi. Appunto. Questo è quello che accade a Napoli, il giocattolo sospeso. Sarebbe bello che questa moda diventasse tale e diciamo inondasse anche tutte le altre città. Grazie ad Andrea Piana, Claudia Schiattone, Carmelo Ricella in regia. Noi ci risentiamo domani con Si può fare alle 8:10. Un augurio di buona giornata. Ciao da Alessio Maurizi. E ciao da Carlo Gabardini. Con quel che resta della voce, anche a chi ci ascolta in podcast. Ciao.